palla ovale. Pomeriggio a tutti da Carlo Genta, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunte in regia. Vi do subito e al volo i parziali della Serie B di calcio. Sull'argomento torneremo con calma più tardi, perché adesso abbiamo Italia-Australia, un film da raccontare. Però parziali in B, in divenire: secondo tempo, Albino Leffe 1, Mantova 0. Gol di Carobbio, Grosseto 1, Modena 1, quindi la Triestina in vantaggio 2-0 a Rimini. Testini e Della Rocca, Sassuolo che vince con il Cittadella, gol di Poli, tutte le altre sono sullo 0-0. Invece eravamo sul 20 pari al 67esimo del secondo tempo di Italia-Australia a Padova, quando Luciano Orchera ha avuto sul piede, 13 minuti dalla fine, il pallone per passare in vantaggio. Poi da lì quel pallone non è finito tra i pali, e da lì Giacomo Bagnasco, che è in collegamento da Padova, ci racconta come è andata a finire. Giacomo, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. È andata a finire 30-20 per l'Australia e a lungo si è sperato, ma in maniera fondata, che il risultato fosse diverso. C'è stata un'Italia che ha combattuto dal primo all'ultimo minuto, ha giocato bene in difesa, si è opposta a un'Australia che non è parsa al massimo. La mischia azzurra ha tenuto di fronte agli avanti australiani, nonostante qualche problema in rimessa laterale. Gli azzurri sono riusciti a riscattare un brutto inizio. Ricordiamo, al settimo la meta dell'ala australiana Turner si era già sull'8-3 per l'Australia, ma l'Italia ha tenuto colpo su colpo, si è riportata sotto grazie anche ai calci e a un drop di marcato, fino a quando al 32esimo è arrivata una di quelle mete che rimarranno nei quadri, nelle fotografie, nei quadretti, sì, degli appassionati di rugby. È stata una meta in prima fase, di solito faceva notare Mauro Bergamasco a fine partita: queste mete noi le prendiamo. Invece stavolta l'abbiamo segnata a una grande del rugby mondiale, a questa Australia terza nel ranking mondiale, due volte campione del mondo. Mischia italiana vinta, palla al largo, un passaggio di marcato per Masi, l'estremo che è entrato con un timing eccezionale, ha controllato un pallone non facile, ha servito Mirko Bergamasco che sulla fascia è andato a segno. L'Italia si è portata in vantaggio, a quel punto era 14-11 e cominciavano ad aprirsi degli scenari che era difficile immaginare prima del match. Guiteau ha pareggiato e il primo tempo è terminato 14 pari. Nella ripresa ancora due calci di Guiteau, che era subentrato a Barnes, il mediano d'apertura che gli era stato preferito, ma si è fortunato quasi subito. Però sono arrivati i due calci di Orchera, che a sua volta aveva sostituito marcato, e come ricordavi tu Carlo, a questo punto si giocava veramente sul filo del rasoio. Al 27esimo c'è stata questa possibilità per Orchera, un pallone che almeno dalla tribuna è sembrato veramente uscire di un nulla, tant'è vero che buona parte del pubblico, un grande pubblico, 30.000 spettatori, record assoluto all sports, se si può dire, per l'Euganeo di Padova, che ha salutato con grande entusiasmo il ritorno della nazionale in Veneto. Dicevamo, buona parte del pubblico riteneva addirittura che il pallone fosse entrato. Sì, mancava poco, ma a 5 minuti dalla fine confermo, c'è stata questa meta. Giacomo, confermo l'impressione tua vista la TV, insomma, anch'io volevo vedere quelle bandierine alzarsi, mi sembrava che la palla fosse dentro di Orchera, invece la prospettiva ingannava, ma barba al palo, diciamo così. E poi Carlo, questo penso molti ascoltatori l'abbiano visto, a poco più di 5 minuti dalla fine c'è stata la meta di questo australiano talentuoso ventenne, Quade Cooper, un bello slalom, forse qualche placcaggio mancato, ma alla radice di questa azione c'è stato anche un velo probabilmente che ha impedito a Sergio Parisse, che è stato uno dei migliori, di intervenire e di placcare il tre quarti australiano. Ma a me è sembrato irregolare, francamente, Giacomo, con Mortlock che è andato a fare blocco su Parisse. Esatto, Parisse molto, poi è molto netto, terra. Insomma, diciamo che probabilmente non è stato direttamente colpito da Mortlock, però Mortlock gli ha reso impossibile l'intervento su Quade Cooper. Sì. Così vanno le cose nel rugby, non si recrimina troppo sulle decisioni arbitrali, ma naturalmente si fanno presenti gli errori. Ce n'era stato anche uno molto strano con un giocatore australiano che era uscito con una gamba intera fuori dalla linea laterale con il pallone in mano, e il guardaline non si era accorto di questo di questo nezzo, di questa netta rimessa laterale a favore dell'Italia. Comunque a quel punto Guiteau trasformava, ha trasformato, ha messo fra i pali tutto, 6 occasioni, 6 calci in mezzo ai pali, e riusciva poi a segnare un altro calcio al 39esimo, ma ormai la partita, come si suol dire, era rotta, si era perso il filo, per gli azzurri era difficile ritornare, certo, in partita. Un peccato, perché questa Australia non è parsa del tutto fuori dalla portata degli azzurri, così come non lo era parsa 2 anni fa quando si era imposta 25-18 dopo aver chiuso a Roma il primo tempo in svantaggio. Allora era stata soprattutto un'Australia deludente, questa volta è stata un'Italia convincente, ripeto, soprattutto nelle fasi difensive, in attacco comunque qualcosa di buono, sì, e di più si è visto, e è una squadra che in questo momento può anche contare, io direi, su 2 mediani di apertura di ruolo, perché Marcato non ha giocato male, no, e Orchera tutt'altro, forse ha giocato addirittura meglio, quindi Giacomo, questo è un buon segno. Io ti proporrei di sentire insieme ai nostri ascoltatori un paio di voci prese al volo attraverso i microfoni di La 7, che ha trasmesso questo incontro, che trasmetterà anche i prossimi incontri, sabato prossimo con l'Argentina a Torino e poi a Reggio Emilia con i Pacific Islander, i 2 test match, 2 dei 3 test match che restano in questo novembre azzurro. E allora voglio farvi sentire Andrea Masi, poi facciamo delle riflessioni con Giacomo Bagnasco dopo il traffico, ma prima queste voci. Andrea Masi, estremo azzurro, oggi tornato con il numero 15, un ruolo che probabilmente sente più suo e che meglio interpreta rispetto a quella maglia numero 10 che probabilmente gli andava un po' stretta, come gli era stata cucita addosso da Nick Mallett nelle 6 Nazioni dell'anno scorso. Sentiamo ebbene cosa ha detto Andrea Masi. Dobbiamo ancora crescere, siamo contenti della prestazione di oggi e abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. È andata abbastanza bene oggi. Andrea ha fatto un'ottima partita, soprattutto in difesa, che era quello che preoccupava principalmente Mallet, è stato grandioso. Quindi Mirko, come al solito, ha fatto benissimo. No, diciamo, sono riusciti. Veramente un pubblico calorosissimo, a partire dal primo giorno agli allenamenti, grazie a Padova. Adesso l'autore di quella meta da cartolina che ci ha benissimo raccontato Giacomo Bagnasco, cioè Mirko Bergamasco, sentiamolo. Giacomo Bagnasco, sentiamo Mirko Bergamasco naturalmente. Abbiamo giocato col cuore, questa è la cosa più importante. Ci eravamo promesso tutta la settimana di fare una grande partita, di entrare con la testa, con il cuore, con il fisico. Sapevamo che non sarebbe stato facile, però penso che abbiamo fatto una grande prestazione. Siamo andati sotto, abbiamo recuperato, siamo rimasti lì con una squadra che è tra i primi mondiali. Ci è mancato sempre quella cosa in più, quel dettaglio che ci ha fatto perdere la partita negli ultimi 5 minuti. Penso che con una settimana di lavoro, dopo 3-4 mesi che non ci vedevamo, sia stata una buona partita per noi. Adesso bisogna mantenere la fiducia che abbiamo avuto fino adesso e per giocare le prossime 2 partite a grande livello come stiamo giocando. Lo sapevamo, un placaggio mancato, un pallone perso era molto pericoloso. Questo è stato la dimostrazione, ma abbiamo visto che se vogliamo giocare possiamo mettere difficoltà e migliorare il mondo e bisogna partire su queste basi. L'abbiamo dimostrato 2 anni fa a Roma, dove ancora per 7 punti abbiamo perso la partita, e però eravamo lì per portarla a casa. Quindi è una continua crescita, l'importante è continuare su queste basi, su questa strada, perché penso che siamo nella strada giusta. Abbiamo cominciato qualche anno fa e bisogna continuare fino al 2011. Questo è Mirko Bergamasco. Palla ovale. Dunque, torniamo a Padova per commentare un'Italia senz'altro bella, senz'altro solida, senz'altro che lascia ottime sensazioni per ciò che verrà. Temi di questa partita. Giacomo Bagnasco, dicevamo Masi, man of the match. Certamente quella maglia numero 15 gli sta meglio rispetto al 10. Abbiamo un estremo di alto livello mondiale, mentre come numero 10 era una soluzione evidentemente tampone. Sì, anche se come sai, Carlo, Masi ha fatto presente che anche nel ruolo di estremo da parecchio tempo non gioca. Sicuramente è un ruolo che gli è più consono, non è parso perfetto nei calci di spostamento, in alcuni calci di rinvio, ma per il resto ha giocato una buona partita e comunque è un giocatore che si vuole sempre avere dalla propria parte. Probabilmente se potesse giocare centro sarebbe la giocazione migliore, però in questo modo riesce anche a risolvere più di un problema in altre posizioni. Abbiamo anche un ascoltatore in linea, Giacomo dalla Spezia, che partecipa al forum rugbistico. Giacomo, buongiorno. Giacomo dalla Spezia? No. Eccoci. Proviamo. Dica. Dunque, no, io volevo chiedere questo. Io ho visto la partita e devo dire che sono rimasto molto favorevolmente colpito, perché insomma l'Italia, sento prima il commento, è vero, ha giocato bene, poteva vincere. Quello che mi chiedo è come si fa a superare ormai l'ultimo gradino che manca a questa squadra, che a me mi sembra una costante, e cioè la capacità di mantenere la tensione fino alla fine degli 80 minuti, perché io credo che ormai sul piano del gioco, a parte forse il Sudafrica, forse la Nuova Zelanda, ma insomma sulle altre squadre ormai mi sembra che siamo a un livello compatibile. Ci manca quel pizzico di continuità in più fino alla fine che ci consente di non fare sempre delle belle figure, ma di vincere. Ecco, mi sembra che nonostante tutto, nonostante i progressi evidenti di questi anni, rimanga questo elemento che poi alla fine è quello che fa la differenza fra una bella prestazione e una vittoria, che insomma nel rugby, come in tutti gli sport, certo, è esattamente la stessa cosa. Mi sembra che nonostante tutto, anche io penso che Mallet abbia fatto fare dei passi avanti alla squadra, a me sembra che sia più quadrata anche come tipo di gioco. Manca sempre questo, che è un fatto più mentale, credo, che tecnico o fisico, perché Guardi, le dico, io concordo su questo difetto negli ultimi tempi. Oggi sinceramente mi è sembrato qualcosa di diverso, perché mi è sembrato invece un'Italia che era lì, ripeto, al 67esimo, Orchera ha avuto il calcio per andare 23-20 e di lì mancavano 13 minuti alla fine. Era un'Italia che però non dava, non so la sensazione di Giacomo Bagnasco dal campo, ma non dava segni di cedimento. Sono perfettamente d'accordo con te, Carlo. Se avessi dovuto rispondere io prima avrei detto esattamente le stesse cose. Possiamo essere d'accordo col nostro ascoltatore per parecchie delle partite che l'Italia ha giocato negli ultimi anni. In questo caso non c'erano stati segni di cedimento e anche la meta a questo punto è venuta più per, diciamo così, per un episodio particolare che non per un crollo degli azzurri. Sicuramente la concentrazione può essere calata in quel momento per quel fallo evidente, che però ha un po' spiazzato tutta la retroguardia dell'Italia. A questo punto naturalmente si attenderanno delle controprove anche nei prossimi test match e nel Sei Nazioni, però questa è stata una squadra che ha combattuto fino in fondo, ripeto, ha difeso molto molto bene e anche in attacco qualcosa ha fatto vedere, anche se dobbiamo dire nel primo tempo francamente la partita non era bellissima. Anche per buona parte del secondo è stata combattuta ma non bella, si sono visti parecchi errori, gli stessi australiani, abbiamo detto un dito infallibile nei calci, forse meno nella gestione del gioco. In questo è stato aiutato probabilmente da Cooper quando è entrato. Cooper, lo ripetiamo, talento ventenne che può giocare centro e mediano d'apertura. A questo proposito vorrei sottolineare anche l'ingresso negli ultimi minuti al posto di Ashley Cooper come estremo di James O'Connor, che è un giocatore nato nel 1990. Anche questo fa la forza di una grande nazione rugbistica, quella di sapere, certo, far crescere e scoprire e portare subito alla ribalta, perché se sono forti sono forti anche dei bravissimo, veramente giovanili. Bravissimo, perfettamente d'accordo. Però secondo me, appunto, sottolineavi uno dei motivi di oggi, oltre a quello che abbiamo sottolineato rispondendo all'ascoltatore, cioè di un'Italia presente fino in fondo, è stato sono stati i progressi che abbiamo visto nella fase offensiva. Quella meta è la punta dell'iceberg, però mi è sembrato un'Italia anche migliore nella gestione della palla e nell'apertura del gioco, un'Italia meno concentrata sulla forza dei suoi avanti. Abbiamo un altro ascoltatore, Marco da Modena, buonasera. Buonasera dottor Gens, è un piacere parlare con lei. Reciproco, dica. Le telefono perché, come altri immagino, ho visto la partita di oggi e sono ancora le rigo, mi tremano ancora le gambe. Secondo me avere gareggiato alla pari con una squadra che si è presentata a Padova con tutte le carte in regola per darci 30 punti, in una formazione che faceva paura, sembrava la stessa che ha giocato a Hong Kong contro il test match con la Nuova Zelanda, che per loro perdere con la Nuova Zelanda piuttosto si sarebbero tagliati una mano. Sì, ed era una settimana fa e non un anno ed fa. Era una settimana fa. Mm. guardi, io sono veramente estremamente convinto che sono un po' emozionato. Io andai a vedere una volta l'Italia a Bologna contro la Nuova Zelanda e finì 70-0 senza mai aver neanche il pensierito questi personaggi. Io oggi ho visto in un momento, in una touche, gli australiani si guardavano e sembrava avessero paura di perderla questa partita. Lei ha ragione. Avevano capito che l'Italia, a forza di metro su metro, pallone su pallone, gliel'ha fatta sudare tutta. Sì, no, ma si vedeva. Fatto di giocare alla pari con queste persone, anche se chiaramente, come si dice, i 10 punti in tabellino rimangono, e è il risultato quello che fa la storia, non è la partita fatta. Ma io sono convinto che l'Australia ha avuto paura, perché la federazione Dondi ha sentito la sua voce all'International Board, perché una volta con l'Irlanda in un test match ce la ricordiamo bene, quel test match che non l'ha visto nessuno, quel test match premondiale ci è rimasto scolpito nella storia. Ma ripetiamo, anche questa meta di Cooper viziata da un gesto non propriamente regolare di Mortlock, ed era anche piuttosto evidente. Però insomma, restiamo su un'Italia che, insomma, è vero, ha fatto paura all'Australia. Gli australiani avevano a un certo punto, a metà ripresa, la faccia della paura, la faccia di chi non sa se riuscirà a portare a casa la pelle e la vittoria. Volevo chiudere con Giacomo Bagnasco sull'argomento linea mediana. Marcato a me è piaciuto molto, Giacomo, nel primo tempo. Poi è entrato Orchera, piuttosto preciso ai calci, salvo quello forse più importante del 67esimo. Marcato anche un drop, ormai il suo marchio di fabbrica, ed era quello del 9-11 sempre nel primo tempo. La cerniera marcato Canavosio, secondo te nel complesso com'è andata? E aggiungo, ha giocato anche Tonino Latti alla fine, insomma, sul fronte più preoccupante, cioè quello della mediana, possiamo stare tranquilli oppure no? Possiamo stare un po' più tranquilli oppure no, Giacomo? Guarda, consideriamo anche che per quanto riguarda la mediana c'è Piccone fuori causa come mediano di Mischia e potrebbe anche essere il titolare ora come ora. Secondo me Canavosi ha giocato una partita sicuramente attenta anche in difesa, quindi ha giocato un buon incontro, ha giocato marcato una partita sicuramente più che sufficiente. Direi che come ti dicevo, tutto sommato questa mediana è andata bene, si trovava di fronte dei giocatori forti, hanno giocato una partita all'altezza. A me ti dirò, è piaciuto, ti ripeterò, anzi è piaciuto anche Orchera, tra parentesi a un certo punto ha fatto una presa al volo, lui piccolo e anche non propriamente un gigante, veramente di grande coraggio e di grande efficacia. Tutto sommato possiamo avere qualche pensiero ottimistico in più, anche perché effettivamente rispetto all'anno scorso, rispetto a questo coraggioso, se vogliamo, esperimento di Masi all'apertura, abbiamo messo in campo due aperture di ruolo e abbiamo visto che naturalmente si possono avere dei migliori risultati quando il gioco può variare, quando si calcia, si apre anche secondo determinate concezioni tattiche, e queste cose si sono viste. Vorrei anche dire Carlo, che sicuramente gli australiani erano preoccupati, sicuramente si guardavano in faccia cercando un po' di capire come venire fuori da una situazione che non era certo felice. Hanno festeggiato parecchio per la loro meta e questo vuol dire che veramente si sono trovati in difficoltà. Ha ragione. Poi altre cose non mi spingerei a dirle, ecco, forse non era la stessa squadra, anzi sicuramente non era la stessa squadra se guardiamo gli uomini che ha affrontato la Nuova Zelanda 7 giorni fa, e insomma, se vogliamo fare anche un altro ragionamento rispetto a quello che ha detto l'ascoltatore di Modena, sicuramente ci siamo avvicinati molti a questa Australia, normalmente però non confondiamo l'Australia con la Nuova Zelanda, perché la Nuova Zelanda invece normalmente ce le suona sempre. Quell'inferiority complex ancora non ce lo siamo levati, quello dei tutti neri ancora ci resta addosso. Ricordiamo questo magnifico 21-21 di 17 anni fa dell'Italia a Leicester contro la Nuova Zelanda, lì sì veramente sembrava di essere una svolta, ma invece quando giochiamo contro l'uomo nero si vede l'uomo nero si fa sempre paura, Giacomo. Sempre paura. Chiudiamo con un altro ascoltatore, mi fa molto piacere che ci siano, li facciamo parlare naturalmente, 800 24 00 24. Fabio Padova, buonasera. Buonasera, io chiamo da Padova perché sono appena uscito dallo stadio, sì. Però in realtà sono di Como, sì. E saluto Giacomo Bagnasco, con cui abbiamo avuto scambi di mail, ci siamo visti anche una biciclettata, quindi... siete in rugbistica confidenza, dica. Sì, volevo solamente dire che dalla nostra posizione ero in curva nord, era la posizione più bella per vedere la meta di Mirko e siamo impazziti per quella meta, chiaramente. E si è vista altrettanto bene, vabbè, la scorrettezza del secondo tempo della meta dell'Australia. Pazienza. Secondo me nel primo tempo l'Australia non è che abbia giocato al di sotto delle sue possibilità, ma ha giocato un po' meno nel primo tempo, pardon. E nel secondo invece ha dovuto correre e, tra virgolette, picchiare per portare a casa il risultato. Ecco. Non sì. So se a voi è parso lo stesso. Direi di sì. Giacomo, cosa dici? Penso che alla fine se lo sono dovuti veramente sudare, questo lo diceva l'amico di Modena prima, veramente hanno dovuto lottare fino in fondo, hanno trovato di fronte un avversario che li ha messi in difficoltà e forse non se lo aspettavano. D'altronde loro devono impostare questa lunga tournée, probabilmente hanno voluto far rifiatare qualcuno, avevano giocato a Hong Kong una settimana prima, ma hanno corso veramente dei grossi rischi e se hanno sottovalutato la partita probabilmente una prossima volta questo errore non lo faranno più. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco. Palla ovale. Continuiamo con grande piacere a parlare dell'Italia del rugby, di questo 30-20, questa sconfitta 30-20 contro l'Australia, però ripeto, l'impressione, il feeling, la sensazione è quella che l'Italia mai come in questo caso sia stata in partita con una superpotenza del rugby mondiale fino in fondo, perché prima l'ascoltatore sottolineava come sì, alla fine un film visto diverse volte, no? Siamo cresciuti ma ci manca il centesimo per fare la lira, cioè magari grandi primi tempi, magari in partita fino al settantesimo, poi ci si sfilaccia, ci si squaglia, ci si scioglie, ci si disunisce un po'. Oggi no, oggi l'Italia è rimasta lì, ha perso semplicemente perché, insomma, per episodi diremmo nel calcio, il piazzato sbagliato che era 5 minuti dopo questa meta un po' dubbia dell'Australia e lì eravamo al 72esimo, la partita è onestamente finita. Però mai così presenti, ripeto, mai così dentro una partita con una superpotenza, almeno secondo me e almeno in tempi recenti. Al volo, gli aggiornamenti sulla Serie B di calcio, poi proveremo a parlarne. Albino Leffe, partita in divenire, ancora in corso, sono iniziate le 16. Albino Leffe Mantova 1-1, Ancona Avellino 0-0, Piacenza in vantaggio a Brescia 1-0, Empoli in vantaggio a Frosinone 1-0, gol di Lodi, Grosseto che ribalta il risultato col Modena, perdeva 1-0, ora vince 2-1, L'Ascoli che conduce 1-0 a Pisa, la Triestina 2-0 a Rimini, il Sassuolo 2-0 sul Cittadella, il Livorno in vantaggio a Vicenza 1-0, è la giornata, mi sembra, delle vittorie esterne. Ma noi continuiamo a parlare con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Da Treviso c'è Alessio che mi scrive: gli azzurri sono stati dei polli, una partita così bisogna vincerla. Vero, caro Alessio, però ripeto, mai come in questa occasione l'Italia ci ha provato sul serio. Rimaniamo a Treviso per un ascoltatore che è Nicola. Buonasera. Sì, buonasera. Sono stato anch'io allo stadio a vedere la partita e volevo dare una mia chiave di lettura. Sì. E secondo me i cambi in prima linea che sono stati fatti da Mallet nel secondo tempo hanno fatto la differenza, perché ho visto una prima linea e una mischia che mi dava all'inizio un'idea di poter anche cedere la lunga, che invece ha tenuto benissimo. Questo almeno l'impressione che ho avuto io dallo stadio. Sì, è condivisibile, ma d'altra parte guardi, sì, il fatto che abbiamo la prima linea, esatto, che quando viene sostituita ne arriva una di pari livello, bravissimo, penso che gli avversari la mettono in difficoltà. Bravissimo, è quello che le stavo per dire. Poi io avevo avuto un'impressione su Mauro Bergamasco, di cui sono anche un estimatore, che io me lo immaginavo più protagonista oggi. Mi dà l'idea così che delle volte non entri completamente in partita, anche se magari ha fatto una percentuale di placaggi mostruoso, perché io non è che abbia visto benissimo però così mi dava l'impressione che ha delle partite in cui viene fuori alla grande, delle partite un po' sottotono, però... Ma guardi, su Mauro Bergamasco e su Paris, insomma, mi pare quasi superfluo dilungarsi. Lei ha avuto l'impressione giusta, ha fatto un numero di placcaggi impressionante, come al solito. Cioè, Mauro Bergamasco e Paris, secondo me, sono due che li metti lì e sai che giocano tra il... il 7,5 e l'8,5 come voti in pagella, sotto non scendono, quindi se c'è una garanzia che abbiamo sta in questi due mostruosi giocatori che per fortuna mettono la maglia azzurra. Rimaniamo da quelle parti, da Treviso a Vicenza. Pierluigi, buonasera. Sì, buonasera. Sono stato anch'io naturalmente a vedere la partita. Ho visto una grande Italia, sì, come è successo in tante altre occasioni, ma mi sono reso conto dell'arbitraggio. Cioè, gli arbitri troppo spesso ci sono contro. Oggi ci sono stati alcuni episodi al di là della meta. Un piede fuori, sì, fischiato, sì, a Masi, che non esisteva assolutamente. Dopo quell'intervento su Marcato, che nel primo tempo, che a mio avviso andava punito. E ma in tante altre occasioni... l'Italia è stata penalizzata. La mia idea è che finché i nostri arbitri non sono posti, non arbitrano a livello internazionale dei grossi incontri, sì, delle squadre naturalmente anglosassoni, eccetera, noi non riusciamo ad essere tutelati sempre. Quindi lei dice fino a quando, cioè, ne fa una questione di politica arbitrale, ecco. Mi pare di aver capito. Si vede la partita di un atteggiamento arbitrale così. Certe volte ti danno l'intuizione che magari non incide in maniera sì. importante. No, è chiaro. Poi lei dice sull'episodio chiave al 72esimo, mi è sembrato piuttosto netto l'intervento di Mortlock su Paris, che non è potuto andare al placcaggio. Sì, come il piede di Masi. No, ma poi sugli altri si va su micro episodi. Qui è l'episodio che ha deciso la partita, perché non abbiamo la prova contraria, però uno come Sergio Paris, che l'avete presente, che cade per terra quando ha un avversario che gli sta per andare in meta, insomma qualcosa è successo, perché Paris non fa la fine, non si tuffa. L'arbitro ha arbitrato male, come in tantissime altre occasioni, e la nazionale è stata penalizzata, come in tantissime altre occasioni. È ora che anche i nostri arbitri entrino nel grande giro internazionale. Nel grande giro. Io penso che avremo più rispetto. Ma può essere, questa è una considerazione interessante. Però resta il dato di fatto per cui, insomma, la memoria va a quella partita con l'Irlanda, eccetera, di cui abbiamo accennato prima. Nel rugby, lo sappiamo, non ne facciamo una questione arbitrale, e questo rimane un punto d'onore e d'orgoglio. Però quando ti trovi in una partita come questa a lamentarti un pochino per l'episodio che l'ha decisa, insomma, qualche riflessione va fatta. Padova, luogo della partita. Alessandro, buonasera. Buonasera, concittadino omonimo di Del Piero, grande protagonista certo. della settimana, grande campione al Bernabeu, però insomma, parlando di rugby, perché sono anch'io cercando di uscire dallo stadio, esatto. Dica. Comunque io volevo solo parlare della touche dell'Italia. Insomma, ho visto un po' di difficoltà, non so se sia per via del grande lavoro fatto dagli australiani. Comunque non so se l'avete già parlato con Giacomo Bagnasco, perché sono da poco in auto e volevo... No, ne abbiamo accennato Alessandro, però lei fa bene a tornare sull'argomento, perché è stata un'altra delle piccole chiavi di questa partita, una touche italiana che ha un po' sofferto, contrariamente alle abitudini. Certo. Ecco. Solo quello? Certo, volevo solo avere un vostro commento ulteriore, insomma, su questa cosa che poteva essere migliorata. Ho visto che è uscito nel primo tempo Ghilardini per Ongaro, ma non so se sia stata colpa sua o se era semplicemente una pressione degli australiani veramente forte in touche che ha portato questi problemi. A mio parere la seconda che ha detto, cioè non è una questione di tallonatore, è una questione di Ghilardino, di Ongaro. È una touche italiana che sappiamo bene come l'Italia in touche sia forte, sappiamo bene come Marco Bortolami abbia le chiavi di quella touche. Oggi, insomma, avevano davanti l'Australia, qualcosa fanno, qualcosa. Anche se non sono nella loro miglior versione, restano pur sempre uno squadrone che oggi ci ha messo in difficoltà sulle touche, rubandocene tre, se non ricordo male, nel primo tempo, e comunque facendo soffrire dall'inizio alla fine la touche azzurra. Questa è stata un'altra delle chiavi di questa partita, però ripeto, dall'altra parte avevamo un pacchetto di gente che con la palla che vola ci sa fare, insomma. Palla ovale. Dunque, se volete continuiamo a parlare di rugby insieme, 800 24 00 24, questo è il numero verde. Però abbiamo sentito un ascoltatore, l'ultimo ascoltatore intervenuto da Padova, si chiamava Alessandro, è venuto spontaneo il discorso sul grande protagonista della settimana. Allora, volevamo oggi salutare una persona che ormai è un'amica, visto che diverse volte è venuta a trovarci telefonicamente, magari un giorno lo farà anche di persona, ed ecco lei che ad Alessandro Del Piero da Padova ha insegnato a leggere e scrivere. Si chiama Maria Clara ed è stata la sua maestra. Buonasera! Buonasera! Buonasera. No, sono stata la sua maestra, sono stato l'insegnante Leonardo da Vinci. L'insegnante Leonardo da Vinci. Quando, accompagnato dal papà, era quei cuccioli del Padova che lo preparavano, e quindi studiava e lo preparavano al calcio, ma era di una timidezza semplice, umanissimo, come è sempre stato. Voglio dedicare ad Alex un grazie per la sua umanità, perché ho avuto due gioie immense. Prima Alex, che ha segnato, dice: mi sono sentito 20 metri sopra il cielo quando l'applauso della gente, però rimane sempre con i piedi per terra e rimane proprio un bel volto di ragazzo, anche se ormai sì, la sua età, da giovane ancora, perché resterà così, poi ha tanti bei ricordi. E vorrei dire ad Alex che l'unico articolo che mi sono bevuta tutto è stato quello di Marco Ansaldo, tutti gli stadi di Alex, e io gli dedico il premio Nobel per il calcio. E poi la gioia di Obama, cioè penso che sono due persone differenti, per carità, non voglio fare differenti in diversissimi settori, sono due protagoniste persone della settimana con belle facce, no? Cosa? No, dicevo, due persone diversissime in ambiti totalmente diversi, però vero, le due facce belle della settimana. Belle, che ci hanno fatto sentire di razza umana, che è bello essere di razza umana, anche se non sei solo il grande finanziere, il grande imprenditore, ma insomma, persone umane. Toccato la storia, uno nel suo campo, uno nell'altro. Un modo elegante, quello di Del Piero, comunque è sempre stato prof, sempre un modo elegante di essere personaggio, soprattutto in un ambiente che spesso è poco semplice, elegante, come quello del calcio, no? E io con le battute gli dicevo: diventerai miliardario, ridendo, perché sì, la razza si intravedeva, cioè era bravo nel calcio, però si alzavano molto presto e poi veniva per fare tutte le esercitazioni, le prove, quindi e poi è partito, è volato, e penso che abbia fatto contento anche Agnelli, dove si troverà nel pianeta, perché l'aveva chiamato il Pinturicchio, e penso che se lo meriti. Prof, io le chiedo ancora questo: domani il ragazzo compie 34, il bambino compie 34, 34 è diventato grande. Senta, lei che lo ha conosciuto quando non so, aveva 14 anni, ne aveva 14, le sono passati 20, cosa gli consiglierebbe? Se lo incontra per strada a Padova, cosa gli consiglierebbe per il niente, futuro? Quello che gli consigliava per il suo futuro, papà, persona per tanto per bene, di razza umana, anche il papà che diceva: beh, è meglio che faccia anche l'esame di terza, perché così è l'Istituto Superiore Leonardo da Vinci, perché dice: se non riesce nel calcio può continuare. Cioè, persone umili ma grandi, che sono talmente grandi che ti commuovono per la loro semplicità, e penso che si sia comportato così, adesso senza farne un idolo, avrei sui difetti, era normalissimo, sì, sì. Ridendo gli dicevo: ti svegli come tutti quando c'era la ricreazione, ma è normale, gli farei solo l'augurio di fare sempre del bene come lo ha fatto. Di rimanere con questo modo elegante di essere personaggio, anche per il futuro e per quello che verrà. Perché anche quando non sempre battono le mani, lo hanno criticato, l'hanno detto che è finito, guarda, ma non ha mai aggredito nessuno. Lei ha ragione, chi le parla non è esattamente un delperiano convinto, perché anche dal mio punto di vista ho avuto e avrò delle critiche, soprattutto sul Del Piero Azzurro, su tutto quanto, calcisticamente parlando, ma solo calcisticamente, perché poi per il resto vale quanto ho detto. Prof, la ringrazio, ci sentiamo presto. Io ringrazio lei e grazie a Rai 24, soprattutto per le notizie varie e anche per il modo di fare calcio, in modo simpatico, anche rugby. Grazie. E auguri anche ai miei nipoti, perché sono tifosi. Il padre Luca, il figlio Jacopo di 19 anni, tutti e due per la Juventus. Tutte e due per la Juventus e ovviamente Piero. Indovinate un po' per Alessandro Del Piero. Io ringrazio la prof di Ale Del Piero, Maria Clara, che senz'altro tornerà a trovarci. Adesso però rimaniamo sul calcio per chiudere, per fare discorsi un po' più di cronaca, salutando e ringraziando Sandro Bocchi, inviato di Tutto Sport. Ciao Sandro. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Giusto per dare un'occhiata al weekend che inizia per la Serie A tra 9 minuti con il primo anticipo e con il Torino in campo con il Palermo. Stasera ci sono le presidentesse contro Menarini, contro Rosella Sensi, ma soprattutto c'è una Roma che cerca la prova di quanto visto in settimana con il Chelsea, e poi c'è una Serie B in divenire. Sandro, io dalla Serie B in divenire, i risultati sono ora quasi tutti finali, l'Empoli ha vinto 1-0 a Frosinone, il Grosseto ha battuto 2-1 al Modena e resta la Coppa Toscana lassù. Empoli si poteva prevedere, Grosseto dura secondo te? Ma il Grosseto può durare perché comunque è in panchina uno come Gustinetti, che da diverso tempo è abituato a lottare per obiettivi importanti, come ha dimostrato negli anni con l'Albino Leffe. Quindi loro hanno assolutamente nessun peso psicologico da dover sostenere, non a caso sono anche la squadra più prolifica della Serie B, insomma oggi hanno vinto anche bene in rimonta contro il Modena, è una realtà che può durare quella di Grosseto, non è lì per caso. Non è lì per caso, risultato forse un po' più sorprendente la sconfitta di un Vicenza che stava andando come una palla di cannone, perde 1-0 in casa con il Livorno, che certamente è una delle big designate di questa Serie B, però era un Vicenza che andava fortissimo, Sandro. Sì, assolutamente, però Livorno, io so, l'ho visto lunedì sera contro il Brescia, ma ha fornito un'ottima impressione, una bella squadra che si sta ritrovando come movimenti, come misure, e poi ovviamente lì davanti a due giocatori di talento come Tavano e come Diamanti, che hanno i colpi per risolverti le partite anche più complicate. Si è visto oggi quel gran gol di Diamanti improvviso, una perla calcistica, per cui c'è questo risveglio della Toscana, perché appunto con questo risultato Livorno sale a 22 punti, immediatamente dietro a Grosseto Empoli, in mezzo c'è Sassuolo, che sì, è veramente una sorpresa, se di sorpresa vogliamo parlare. Sandro, per chiudere, aiutami a presentare le due partite che stiamo per vivere. Torino-Palermo mi sembra una gara interessante, anche perché il Toro domenica scorsa, pur tra contestazioni, polemiche, episodi, Cairo che dice quello che ha detto, eccetera, però ha dato segni di risveglio a Genova sul campo di una Doria ancora un po' grigia. Ospita il Palermo che sta andando bene, stasera Bologna-Roma e la Roma è alla prova del 9, credo. Ma diciamo che sì, per le due squadre che giocano in casa è fondamentale che il Torino, come dicevi tu, contro la Sampdoria domenica scorsa ha dimostrato di essere, cioè avesse pareggiato o vinto, nessuno avrebbe avuto alcun che da ridire per come ha sviluppato la partita per 70 minuti almeno, quindi il Torino è chiamato una svolta questa sera, perché deve assolutamente cambiare ritmo per quanto riguarda i punti da conquistare. Il Bologna ancor più, perché comunque stasera c'è un nuovo allenatore in panchina, Mihajlovic, che ritrova la sua vecchia Roma, e secondo me sono due partite come tutte da seguire con interesse, ma soprattutto quella di questa sera, perché abbiamo due squadre che devono uscire da una crisi di risultati importante. La Roma, come accennato prima, deve dare continuità a quanto dimostrato in Champions contro il Chelsea, e stasera ha un'occasione in, stesso, cioè, facile e difficile al tempo stesso. Facile perché comunque il Bologna è squadra non temibilissima, difficile perché appunto da una partita come questa è tutto da perdere, per cui tra le due io attendo con maggiore interesse quella di questa sera, attendo appunto appunto la mia testata giornalistica di riguardo per il Torino di adesso. Grazie Sandro, a presto. Buona serata a tutti voi. Grazie davvero a Sandro Bocchio. Dunque sta per iniziare Torino-Palermo, Roma-Bologna questa sera, con la Roma che appunto cerca la prova di quanto di buona ha fatto con il, la riprova di quanto di buona ha fatto con il Chelsea, come sapete, con il nuovo disegno tattico che Spalletti ha finalmente varato. Mi sembra fosse giunto il momento. Noi invece ci fermiamo qui con lo sport, torniamo naturalmente domani pomeriggio dalle 17 alle 19, subito dopo la fine delle partite, con tutte le interviste e i commenti del caso. Domani sera, dopo il GR delle 20, con Palla Spicchi per i risultati in diretta dai campi della Serie A del basket, e poi domani sera dalle 22 alle 23 perché avremo un Milan a Lecce che cerca di difendere il primato. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, Giacomo Spunti in regia, domani.